Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Una buona giornata. Oggi ritorniamo su un tema che vi appassiona sempre molto, il tema di mercato, l'andamento dei mercati finanziari internazionali. E sui mercati sono ritornati da qualche tempo alcuni spettri che forse non si sono mai allontanati del tutto. Sono i timori per una ripresa economica molto lenta, ne ha parlato questa mattina anche Oscar Giannino, a 9 in punto. Per qualcuno, più che di una ripresa lenta, si tratta di una vera e propria possibilità di ricaduta in recessione. Tutto sta che si tratta di timori che stanno di nuovo provocando la fuga dal mercato azionario e la caccia ai rendimenti più probabili, insomma, ai investimenti più sicuri, in qualche caso ai più affidabili titoli di Stato. Ieri borse tutte in calo, oggi seduta di nuovo piuttosto debole, l'abbiamo raccontata anche nel corso del giornale radio, e soprattutto valute sul lotto volante a dare una chiara rappresentazione delle scosse che stanno pervadendo le economie mondiali. Le ultime sedute hanno visto un unico protagonista, lo yen, la moneta giapponese, che a dispetto del sorpasso subito in termini di crescita di PIL dalla Cina, tema del quale si è ampiamente dibattuto la settimana scorsa, questa economia, appunto il Giappone, ha una moneta che vola fino a schiacciare il dollaro ai minimi da 15 anni a questa parte e l'euro che invece è rimasto schiacciato ai minimi da 9 anni a questa parte. E allora, oggi vi chiediamo che timori serpeggiano data questa situazione anche tra voi piccoli risparmiatori, oppure il ritorno di interesse su alcune delle cosiddette aree emergenti vi sta portando a prendere in considerazione l'idea di movimentare il vostro portafoglio a favore di certe aree? E quali sono, oppure quali pensate che possano essere gli strumenti di investimento più idonei per farlo? Con noi questa mattina per discutere di tutto questo abbiamo tre ospiti. Intanto il collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, Luca Davi, perché proprio venerdì scorso il tema di copertina di Plus, il settimanale del Sole dedicato al risparmio e agli investimenti, è stato proprio mercati e cambi, guadagnare di più con l'effetto valuta. Luca, ciao, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno ai nostri ascoltatori. E poi un ritorno graditissimo a Salva Danaio, quello di Stelvio Bocco, consulente finanziario indipendente, fondatore di Bono Plus Family Office. Bo, buongiorno. Buongiorno a voi. Con lui naturalmente un'analisi di mercato, ma soprattutto un'analisi degli strumenti di investimento adeguati e opportuni per puntare sulle aree di cui parleremo questa mattina, poi per capire dove andranno queste aree di investimento alla luce dei forti movimenti che le stanno caratterizzando da qualche settimana. Luca Vagliani, responsabile investimenti attivi di Fondaco SGR, buongiorno, benvenuta anche lei. Buongiorno a tutti. 800 24 00 24 è come sempre il numero verde che vi dà l'opportunità di animare la nostra trasmissione, di intervenire con le vostre curiosità, le vostre osservazioni, le vostre domande. Se non volete intervenire in diretta ci potete scrivere al 349 238 6666. Stanno già arrivando, per la verità, alcuni messaggi, poi sto già guardando con curiosità e quindi dopo ne darò sicuramente lettura. La borsa questa mattina, visto che di mercato parleremo, andiamo proprio anche a controllare quello che accade adesso. Questa mattina ci sono diversi temi. Lo yen, dicevo, continua ad essere al centro dell'attenzione generale, anche perché c'è stata questa più volte annunciata, ieri è stata molto più vaga, oggi più concreta, conferenza stampa del ministro delle finanze giapponese che ha detto è tempo forse che il governo intervenga per frenare la corsa della propria moneta. Non credo che interventi diretti ce ne siano stati almeno fino a questo momento, vendendo massicciamente yen per bloccare il rialzo appunto di questa divisa, ma di fatto un po' questa preannunciata intenzione un po' ha frenato la corsa della divisa nipponica sia sul dollaro che sullo yen. Poca cosa, l'euro sullo yen adesso è a 106,83, sul dollaro è a 84,44. L'euro sul dollaro invece è a 1,2651, stamattina l'euro sul dollaro aveva recuperato quota 1,27. In tutto questo le borse sono negative, avevano aperto male, poi sono andate a fare così una piccola puntata in territorio positivo dopo la pubblicazione dell'IFO tedesco, l'indice di fiducia appunto che arriva dalla Germania, che è risultato risultato nettamente migliore delle attese. È stata però una, come dire, questo effetto positivo, una fugacissima apparizione, perché già di nuovo sono tutte giù le borse e stanno progressivamente peggiorando anche la seduta. Parigi meno 0,7, Londra meno 0,32, anche Francoforte perde lo 0,33-0,34%, Milano meno 0,58%. Probabilmente pesa anche la decisione di Standard & Poor's di abbassare il rating sul debito dell'Irlanda sulla base del rialzo per lo Stato del costo di sostegno del sistema finanziario per fronteggiare la crisi. Piazza Affari rapidamente, A2A. No, scusate, vado ai migliori titoli, avevo spostato qua il mio monitor. Atlantia, miglior titolo della seduta, più 1,54%, Snam Mediaset più 0,7%, Terna più 0,40%, Telecom più 0,30%, i ribassi più pronunciati, ancora il cemento a soffrire, Buzzi Unicem meno 3%, Azimut meno 1,90%, Tenaris meno 1,79%, in calo di 1,5% Intesa, altre banche in difficoltà, Mediobanca e Monte dei Paschi perdono l'1,3%. Lasciamo la borsa, ma lasciamo la borsa al meno per quello che riguarda l'andamento in questo momento, però noi rimaniamo sui mercati finanziari internazionali. Sono Cina e Giappone, per un verso o per un altro, le protagoniste del panorama economico e finanziario internazionale estivo. Dopo lo storico sorpasso di Pechino sull'economia giapponese, reso noto la scorsa settimana, ieri è stata la valuta nipponica a finire nel mirino degli investitori e al centro della cronaca. Mentre i listini internazionali perdevano punti in seguito al crollo delle compravendite di case negli Stati Uniti e gli acquisti si concentravano sugli affidabili bond tedeschi, lo yen si è reso protagonista sui mercati valutari. La valuta del Sol Levante è volata infatti ai massimi da 15 anni a questa parte contro il dollaro e da 9 anni contro l'euro. Per un verso o per un altro, i mercati asiatici continuano dunque ad attirare l'attenzione degli investitori, attratti in particolare dalla straordinaria crescita dell'economia cinese e dalle conseguenti opportunità di investimento. Ma quali sono le vie e gli strumenti per cavalcare il dragone? Naturalmente è possibile acquistare fondi di investimento o ETF focalizzati su azioni cinesi. Altrimenti è possibile acquistare direttamente titoli di società cinesi quotate però su altre piazze come New York. Sui mercati domestici come Shanghai e Shenzhen, il singolo investitore infatti non ha accesso. Indipendentemente dal mezzo di investimento prescelto, è bene tenere presente che a fronte di rendimenti spesso elevati fa da contraltare una scarsa regolamentazione, una forte volatilità e la sensibilità dei mercati interni alla politica del paese. 800 24 0024 è il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta. C'è già qualche ascoltatore che vorrebbe intervenire, non siamo però con queste domande proprio in linea con il tema di oggi. C'è chi vorrebbe raccontarci che ha deciso di investire completamente in conti di liquidità, tendenza che peraltro è stata seguita ampiamente negli ultimi anni da molti risparmiatori in Italia. Altri invece che ci dicono proprio spassionatamente: io li sto mantenendo in questi conti di liquidità, vorrei però capire magari che tipo di posizione cominciare a prendere, e chissà se le economie di cui vogliamo parlare questa mattina sono una scelta giusta nel breve, nel medio o nel lungo periodo. Allora, di fatto vorrei cominciare intanto con un nuovo ospite di Salvadanaio, perché non abbiamo mai avuto il piacere appunto di ospitarlo, Luca Vagliani, responsabile investimenti attivi di Fondaco SGR. Si deve impegnare a fare un po' il professore questa mattina, Vagliani, perché io vorrei che ci aiutasse a spiegare a chi non ha una grande dimestichezza con le tematiche che affrontiamo questa mattina, che cosa sta succedendo sullo yen, sulla moneta giapponese, perché noi così immaginiamo che una divisa forte rappresenti un'economia altrettanto forte, invece le tendenze degli ultimi anni del Giappone non sono state esattamente queste. E allora, se dovesse spiegare in termini molto semplici le ragioni di questa corsa, come le spiegherebbe per esempio a me, che molto spesso faccio anche fatica a capire certe dinamiche, ad un bambino di 5 anni? Ma il movimento dello yen non è sicuramente un segnale di forza dell'economia giapponese, ed in generale non sono soltanto motivi endogeni al Giappone a favorire la corsa della valuta. C'è da dire però una cosa importante: noi tutti guardiamo in prima battuta i tassi di cambio misurati in valori nominali. Quindi è vero che lo yen è sui massimi da 15 anni a questa parte nei confronti del dollaro e tante altre valute, ma guardato in termini reali, quindi corretto per l'inflazione, essendoci deflazione in Giappone, lo yen non è certamente sui massimi, anzi è ben sotto. Quindi questo è un primo punto per contestualizzare la forza e il livello del cambio. Poi ci sono dei fattori tecnici, dei fattori fondamentali che spingono all'apprezzamento dello yen. Anzitutto i fattori fondamentali. Proprio per via della deflazione, i tassi reali sulla divisa, nonostante i tassi nominali bassi, i tassi reali non sono così bassi. Quindi c'è un'attrattività in termini reali dell'investimento in yen. Altro punto è una accettazione di una condizione di deflazione all'interno del mercato giapponese. Ciò che si è visto nei mercati finanziari la scorsa settimana è un forte repricing del rischio di deflazione nei mercati occidentali. Cosa vuol dire questo? Le chiedo di essere semplice per i nostri ascoltatori, questo riprezzamento. Sì, la probabilità di accadimento di situazioni di deflazione, quindi di riduzione dei prezzi dei beni nei mercati occidentali, quindi in Europa, negli Stati Uniti, è sicuramente aumentata con gli ultimi avvenimenti di natura macroeconomica che sono stati evidenziati nelle ultime settimane. Il Giappone, che è in questa condizione da anni, ha un grado, se vogliamo, di accettazione della condizione, quindi di tutta una serie di politiche economiche che vengono determinate da una situazione di deflazione che sono già nei fatti, sono già nel mercato. Quindi per esempio le probabilità di interventi da parte delle autorità monetarie allo scopo di monetizzare il debito e svalutare la valuta sono molto meno probabili che non in altri mercati. Questo significa che ci sono tutta una serie di fattori fondamentali che privilegiano l'investimento in yen. Ci sono anche dei fattori tecnici, perché i bassi tassi nominali hanno in passato favorito l'indebitamento da parte il famoso carry trade, che era diventato un grande tema di dibattito almeno 3 anni fa, certo, quindi gli investitori che andavano ad indebitarsi a bassissimi tassi di interesse per poi puntare magari su altri asset più redditizi, più profittevoli. Adesso i tassi di interesse sono bassissimi ovunque, quindi questa chance giapponese non è più utilizzata. Esattamente, quindi lo smontamento di queste posizioni a leva tipicamente determina un apprezzamento delle valute che erano utilizzate come base per invece la strutturazione dell'operazione. Quindi c'è tutta una serie di considerazioni che vanno di carattere tecnico, di carattere fondamentale, anche di livelli stessi, che vanno messe nel contesto per verificare. Sono tutt'altro che semplici da capire. Di fatto poi però tutte queste turbulenze sono davanti agli occhi di tutti. Luca Davi, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, voi avete analizzato abbastanza approfonditamente questa situazione sul mercato giapponese. La storia di copertina di venerdì scorso di Plus era proprio su questo tema, una piccola spinta dalle grandi valute. Avete definito tale anche lo yen? Sì, direi di sì. Sul numero di sabato scorso siamo andati un po' alla ricerca di quelli che possono essere gli asset che possono mettere un po' di pepe, diciamo, nel portafoglio. Quindi, come da tradizione, come facciamo ogni sabato, siamo andati un po' alla ricerca di quei piccoli grandi, sia nel settore dei titoli governativi e sovranazionali, sia nel settore dei corporate bond, sia anche sul listino azionario del Nikkei 225. Insomma, siamo andati a vedere quelli che potevano essere i titoli a maggior rendimento. Li abbiamo ovviamente estrapolati, rielaborati. Insomma, ci sono sicuramente delle occasioni interessanti per tutti i risparmiatori. Ovviamente, come sempre in questi casi, ci vuole molta cautela per non cadere in tranelli che possono essere sicuramente all'ordine del giorno, soprattutto in mercati dove comunque bisogna andare veramente con i piedi di piombo, evitare di farsi prendere dall'euforia, soprattutto oggi come oggi, perché sappiamo benissimo che quando le notizie esplodono vuol dire che insomma siamo già in una fase matura, ecco, quindi sempre grande attenzione. Quindi è come dire, traducendo in termini pratici, se guardate con interesse a questa corsa dello yen, vi viene in mente oggi di cominciare magari a cavalcare questo che potete pensare potrebbe essere un cavallo vincente, attenzione che già viaggiando sui massimi da 15 anni sul dollaro, forse adesso, anche se c'è tutto poi il tema dei tassi tassi reali, la differenza con quelli nominali da considerare, come ci ha spiegato prima Luca Vaiani. In ogni caso, insomma, pensiamoci bene. Valutare. Anche perché l'investimento sul mercato valutario, a questo tema abbiamo dedicato tantissime trasmissioni, è tutt'altro che semplice e facile da comprendere. E oltretutto adesso ha anche una novità. È un pochettino meno redditizio. Esattamente. Diciamo, cosa è successo a luglio? È successo, Luca, che in sostanza l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con un chiarimento su una questione piuttosto annosa, che interessava molto chi fa proprio trading su valute, cioè chi va a comprare spot, valute spot, pensando ovviamente di lucrarci, ovviamente, come è giusto che sia, anche su eventuali miglioramenti e incrementi delle quotazioni. È successo in sostanza che a partire da qualche settimana, da inizio di agosto, le operazioni spot sul mercato appunto del Forex saranno sottoposte a quello che è la tradizionale tassazione sulle rendite finanziarie, cioè la tradizionale tassazione al 12,5, quella che c'è sul capital gain sotto gli investimenti in Italia. Questo ovviamente ha rappresentato una novità, visto che fino ad oggi non c'era alcuna tassazione su quelle che erano le plusvalenze accumulate nel trading di ogni giorno. Questa potrebbe rappresentare anche un'operazione di equità sul mercato, se non fosse che il chiarimento ulteriore dell'Agenzia delle Entrate è che anche le minusvalenze non potranno essere ammesse a deducibilità. Questa è una novità che invece non riguarda tutti gli altri asset. Questo ovviamente ha complicato di molto le cose per chi fa trading su valute ogni giorno e ovviamente dovrà essere motivo di ragionamento per chi fa operazioni di questo tipo e cose che abbiamo già riscontrato parlando ovviamente con operatori del mercato e chi ogni giorno si trova a trattare con le valute, cosa questa che potrebbe spingere verso altri strumenti, strumenti magari molto più rischiosi, ad esempio i CFD, cioè i contratti per differenza. Per differenza, sì. Sono contratti molto rischiosi che addirittura possono portare a far perdere più del capitale che si è investito sulla valuta, oppure i futures su valute che possono in qualche modo non hanno questo svantaggio, cioè che le minusvalenze possono essere deducibili. Questa, ecco, è una novità che ha toccato appunto il mercato del trading online, ma tutte le piattaforme e comunque chi fa trading su valute. Questo può essere davvero un elemento, insomma, quantomeno di valutazione infatti, e di ragionamento che fino a poco tempo fa non c'era, per cui adesso è bene anche prendere in considerazione questo. Allora, prima di sentire Stelvio Bo, io gli propongo una domanda di un ascoltatore, non tanto perché non voglio essere carina e gentile e sentire anche in questo giro di domande la sua voce, ma perché l'ascoltatore che adesso sentiremo, che è Gianni da Varese, un affezionatissimo ascoltatore di Salvadanaio, soprattutto su questi argomenti, ha sempre qualche riflessione interessante da porci, perché so che il mercato sul quale vuole fare la sua domanda, che non è un oggetto del nostro approfondimento di questa mattina, ma prendiamo volentieri lo stesso questo tema, è un mercato che a Stelvio Bo piace molto, perché io lo conosco e so che ne abbiamo parlato anche in altre circostanze, per cui do il benvenuto a Gianni da Varese e poi sentiremo il nostro consulente indipendente. Buongiorno Gianni. Buongiorno signorina, bentornata. Grazie mille per avermi chiamato. Volevo chiederle prima di tutto del signor Alberto Nosari, che scriveva sempre la lettera all'investitore alla domenica su Sole 24 Ore e l'azione della settimana su Plus 24. Le manca? Purtroppo sì, mi manca tantissimo e vorrei che tornasse a Sole 24 Ore. Allora, adesso noi salutiamo Alberto, lo facciamo anche con Luca, qualche volta si va anche in pensione Gianni, sa com'è, e quindi ha concluso, ma magari adesso suggeriamo al nuovo, tra l'altro, caporedattore di Plus 24, che è l'amico Antonio Quaglio, di assegnare immediatamente subito questa pagina, perché gli ascoltatori gli ascoltatori di Radio 24 e il lettore di Plus 24 la invocano, per cui bisogna dire che comunque le seguiamo sempre le azioni ogni settimana, grazie anche alla collaborazione dell'ufficio studi, che è assolutamente preparatissimo, quindi come dire ogni azione è sempre seguita ogni settimana. No, comunque Gianni, hai visto che approccio corretto che ha l'investimento azionario, quindi si va a guardare, a leggere bene le società, le analisi, i bilanci e quant'altro. Però Gianni, lei voleva portarci in tutt'altra parte del globo, se non sbaglio. Io volevo chiedere ai suoi esperti un consiglio, un'informazione. Sempre nell'area Pacifico io vorrei investire comprando delle obbligazioni australiane, perché mi danno sicurezza. Obbligazioni eBay in dollari australiani. Vorrei sapere, secondo loro, se questo è il momento, se è meglio aspettare, perché il dollaro australiano è già salito molto. In sostanza un consiglio. Grazie mille. Grazie a lei Gianni, e naturalmente buona ripresa anche lei delle attività dopo le ferie. Stelvio Bo è a capo capito perché non è un caso che abbia aspettato a far fare a Gianni la domanda, perché so che lei con grande interesse sempre ha guardato al mercato australiano e, se non ricordo male, a qualche suo cliente ha suggerito di collocare parte del proprio risparmio sui bond australiani. Ci spiega per me, poi andremo e ritorneremo alla Cina e al Giappone. Sì, ma guardi, quando io ho suggerito questo investimento, il dollaro australiano stava contro euro intorno a 1,60, adesso ormai da circa 4-5 mesi viaggia intorno a 1,40, sta tra 41 e 45 a seconda dei momenti. Quindi c'è stato un guadagno in conto capitale del mio cliente e anche il lucro derivante dal fatto che i bond australiani, che sono giusto in scadenza fra pochi giorni, al 31 di agosto, rendevano il 5% ed erano bond comprati diciamo 7-8 mesi fa. Ora su questi livelli io sarei un po' più cauto. Quello che se si spera un guadagno dal cambio, quello che posso consigliare è che nel breve medio è comunque un investimento interessante, perché l'economia australiana sta andando molto bene, quindi se non vedo possibilità di grande apprezzamento, non vedo nemmeno possibilità di grande deprezzamento del cambio. Si conta però in questo caso non più sull'effetto valuta, ma sul differenziale positivo del tasso di interesse. E insomma, quindi ha raffreddato un po' il suo interesse verso questo mercato rispetto a qualche mese fa? Verso la valuta australiana. Se si dovesse oggi tentare di cavalcare altre valute che invece devono ancora percorrere un tratto di strada un po' più lungo, un po' più interessante per l'investitore, bisogna allora rivolgersi al won coreano, anche al peso messicano, al ringgit malese o alla rupia indonesiana. Non ci dica altro, perché già Luca Davi, insomma, si offende un po' che ha rubato quasi tutto un articolo che ha scritto. No, sto scherzando. Però poi ci torniamo su queste aree, perché vedo che anche altre domande di altri ascoltatori sono interessati a questo punto. Però Stelvio Bo, visto che siamo partiti dalla situazione giapponese, perché abbiamo fatto partire la trasmissione analizzando quello che sta accadendo allo yen, poi abbiamo ricordato, come la settimana scorsa, insomma negli ultimi 10 giorni, si faccia un gran parlare tra la comunità degli economisti di questo sorpasso cinese sul Giappone, questo sorpasso che sugli Stati Uniti avverrà tra qualche decennio, ma insomma forse potrebbe avvenire in tempi più rapidi di quanto non crediamo. Detto questo, domattina lei fa il consulente indipendente, quindi non vende prodotti di nessuno, ma accoglie clientela che ha già un pacchetto di prodotti di investimento in mano e le chiede un suggerimento se questo risparmio è ben collocato. Arriva da lei un cliente che le dice: sento continuamente parlare di questa Cina che continua a correre, che sarà ancora lungo la locomotiva mondiale, sento che ha sorpassato il Giappone e mi aiuta ad investire su questo mercato, a cogliere questa opportunità. Cosa devo fare? Le do intanto un minuto, Stelvio Bo, per una primissima ricetta, poi torneremo con questo approfondimento nella seconda parte di Salvadanaio. Io dico che è una ottima idea nel medio termine, perché la Cina sicuramente farà un percorso di aumento della propria importanza e di sviluppo della propria economia. Non dobbiamo aspettarci il tasso di sviluppo tra il 10 e il 12% sempre tutti gli anni, però nei prossimi 5 anni possiamo ragionevolmente accontentarci di un più 8, più 9, così, più 8, perché ci 9. Fa schifo magari ad averne un terzo in Italia. Che è la velocità di crociera che i dirigenti cinesi vorrebbero imprimere all'economia. Sì, poi andiamo agli strumenti. Stelvio Bo, però una curiosità me la deve togliere: quando lei dice un investimento nel medio termine, che raggio temporale intende? Perché abbiamo imparato che questa crisi finanziaria che ci ha sconvolto negli ultimi 4 anni ha cancellato anche tutto il concetto del lungo periodo per quello che riguarda un investimento azionario che possa considerarsi appunto soddisfacente in termini di ritorno. Medio termine quanto è lungo? Termine per me sono 3-5 anni. Benissimo, grazie. Salvadanaio ritorna, 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Questa mattina abbiamo ripreso la diretta di Salvadanaio da lunedì affrontando i temi della casa, ma naturalmente un nostro cavallo di battaglia è anche lo scenario di mercato, lo scenario dei mercati finanziari internazionali. Questa è una settimana molto interessante perché le borse stanno continuando a scendere, le valute sono sull'otto volante, lo yen schiaccia tutti e soprattutto, come vi abbiamo ricordato, ci sono questi due numeri magici, mica tanto, 15 e 9, e cioè lo yen, è ai massimi da 15 anni sul dollaro, ai massimi da 9 anni sull'euro, e tutto questo ha comportato ovviamente la necessità di riflettere un po' su come, se ci interessano queste zone, collocare il nostro risparmio appunto in queste aree, con quali strumenti di investimento farlo. Ancora non ci siamo arrivati a questo punto, però volevo fare un'altra domanda al nostro gestore che abbiamo chiamato stamattina, Luca Vagliani, responsabile investimenti di Fondaco SGR. Ieri abbiamo visto le borse tutte giù per il crollo del settore immobiliare americano, che ancora vive un momento difficilissimo. Le vendite di case in luglio sono appunto proprio scese del 27%, un dato drammatico. La Cina invece, della quale stiamo parlando, che ha sorpassato il Giappone per la sua crescita, sta lottando per frenare la corsa delle quotazioni del mattone, parti opposte del globo che vivono ovviamente problemi completamente opposti. Anche questa mi sembra una riflessione interessante. Sì, è così, e le autorità cinesi stanno implementando misure di politica economica per cercare di calmierare la salita dei prezzi, in particolar modo nelle aree costiere e nelle grandi città della Cina. Il problema sono le condizioni monetarie, economiche e monetarie che spingono questo, perché tassi di interesse ancorati a zero o poco sopra lo zero nelle economie occidentali spingono un enorme afflusso di capitale nei confronti dei mercati emergenti, e i valori di questi asset, che sono per esempio anche misurati dai prezzi del mercato immobiliare, ne beneficia sino ad arrivare al rischio di una potenziale bolla speculativa. Non necessariamente stiamo parlando di una bolla speculativa in Cina, nonostante la grande salita dei prezzi, per l'assenza di alcune condizioni che per esempio hanno caratterizzato il mercato immobiliare statunitense, quindi l'assenza di un mercato di derivati, l'assenza di condizioni di leva finanziaria significativa. Mi sta dicendo che i mutui cinesi nessuno li cartolarizza? In pochi li cartolarizzano, significativamente molto meno che non, quindi gli eccessi che noi abbiamo visto nei mercati più vicini a noi non sono ancora presenti, non sono presenti in Cina. E anche la natura stessa della domanda, meno per investimento e più per un utilizzo privato, agisce a rendere un pochino più sano, se vogliamo, il mercato. Ciò nonostante, è chiaro che la salita forte dei prezzi determina la necessità da parte delle autorità di poterli controllare, e questo è stato messo in atto. È probabile che, almeno questa è un pochino l'evidenza, che siamo un pochino al punto di massima spinta da parte delle autorità per calmierare i prezzi, e che da qui, ed in particolar modo qualora i dati di natura macroeconomica che arrivano dal mondo occidentale non dovessero essere brillanti, si possa pensare ad un rilassamento di queste politiche monetarie e fiscali così restrittive. No, stavo pensando anche al mercato immobiliare cinese. In un'economia gigantesca come quella, in cui naturalmente ancora è molto difficile farlo, ma in cui potenzialmente appunto nei prossimi anni sicuramente sempre più investitori stranieri vorranno, già ce ne sono tanti, ma vorranno continuare ad andare là, a sistemarsi là, a presiedere quell'area, ovviamente, e chiaramente le infrastrutture anche dal punto di vista immobiliare dovranno essere molte, molto molto, insomma, ci dovrà essere una grande accoglienza di questi investitori. Questo credo che renderà sempre più difficile proprio lo scoppio in maniera drammatica di una bolla immobiliare. Vaiani, non crede? Non lo so, è magari una così riflessione molto da Alice nel Paese delle Meraviglie, come mi definisco molto spesso. No, i rischi ci sono assolutamente, non vanno nascosti, ci sono assolutamente rischi di questo tipo. Ad oggi l'evidenza è che le autorità cinesi sono state in grado di controllare i prezzi e di controllare in generale la velocità dell'economia secondo le loro previsioni e secondo quanto loro desideravano. È un credito che queste autorità hanno, ma che devono continuare a dimostrare di meritare. Quindi li si può mettere alla prova, sicuramente i rischi esistono. Vado da Stelvio Bo adesso, devo completare la prima parte del discorso, la parte che abbiamo iniziato nella prima parte di Salva Danaio, però credo che anche a lei il tema del settore immobiliare cinese interessasse, se non mi ricordo male, nella conversazione che ci siamo fatti prima dell'inizio della trasmissione. Stelvio Bo. Sì. Ma io credo che le autorità siano in grado di controllare molto bene l'andamento di questo mercato, così come controllano l'accesso di capitali in borsa, per cui a tutt'oggi gli investitori privati non possono accedere direttamente al mercato interno, ma devono accontentarsi delle red chip, questi 25 titoli più liquidi e più grandi che vengono quotati sulla borsa di Hong Kong. Sì. Quindi ritengo che poi questo tipo di tema sia confinato a investitori istituzionali, perché trovo difficile pensare che ci siano investitori retail italiani che immaginino di fare operazioni sul mercato cinese. No, certo, ma infatti non intendevo assolutamente quello, parlavo di grandi investitori, di magari investitori del settore immobiliare molto importanti ovviamente. Comunque lasciamo l'immobile giapponese perché davvero ci interessa poco, abbiamo già tanti problemi con i nostri qua in Italia, andiamo agli strumenti di investimento che invece possono essere più alla portata di tutti. Allora, visto che sul mercato cinese è praticamente impossibile investire direttamente in borsa, c'è questo segmento A, questo segmento B, insomma, ma neanche stiamo a raccontare come funzionano perché tanto non sono abbordabili per l'investitore retail. C'è però l'opportunità di investire in Cina attraverso la sottoscrizione di fondi di investimento di ETF. Secondo lei, appunto, sempre tornando al famoso investitore che viene da lei domattina a chiederle quali sono le opportunità e quali strumenti è opportuno adottare per investire su questo mercato, che cosa suggerirebbe? Ma io credo che dipende molto la scelta tra gli ETF o tra i fondi dall'ottica temporale che si ha. Se si vuole semplicemente mettere un piede in acqua e aspettare quei 6-12 mesi per vedere un ritorno interessante e poi uscire, allora si è nell'ottica più di fare un'operazione speculativa, di minimizzare i costi, e potrebbe aver più senso comprare l'ETF che ha delle management fee grosso modo la metà di quelle dei fondi con gestione attiva. Gli ETF hanno commissioni di gestione tra 0,50 e 0,70 che sono tra le più alte degli ETF, tra l'altro, e giustamente, perché sono più complicati questi da gestire, mentre le commissioni sull'azionario sono sul range alto di questo tipo di commissioni per i fondi attivi, cioè stanno tra l'1,5% e il 2%. Se si ha un'ottica, che io personalmente consiglierei, di permanenza più a lungo termine, quindi 3-5 anni, su un segmento del proprio portafoglio nel mercato cinese, preferirei andare con un gestore esperto da scegliere con calma tra una serie di fondi che hanno una storia di investimento sul mercato anche molto più lunga di quella che ovviamente hanno gli ETF, che sono uno strumento relativamente un po' più giovane, certo. Attivamente. E poi, quanti ce ne sono di fondi che puntano sulla Cina? So che lei si è documentato su questo, oltre 200, no? A disposizione dei retail italiani. Sono più di 200, mentre gli ETF che possiamo trovare in giro per il mondo sono poco più di un centinaio. Quelli quotati a Piazza Affari sono 9, lo ricordiamo anche, proprio società leader in questo settore che comunque gestiscono, anche se non sono degli strumenti a gestione attiva, molto professionalmente appunto questi prodotti, questo lo dobbiamo anche ricordare. Replicano benissimo l'indice, quindi danno una possibilità di accesso che non ha nulla da invidiare a quella dei fondi. Sui fondi però abbiamo l'esperienza, essendo mercati molto molto distanti, se il gestore è vicino al mercato può dare un valore aggiunto che la meccanica riproduzione dell'indice da parte dell'ETF non può dare. Ecco, benissimo. Se si vuole stare per un po' più di tempo nel mercato, io suggerirei di spendere qualche cosa in più, però andare sul fondo, anche perché i rendimenti che ci si aspetta entrando in questo tipo di gioco sono rendimenti nell'ordine di vari punti percentuali, non si va lì per lo 0,5, per guadagnare lo 0,50 in più. E infatti, e dobbiamo anche tenere conto poi dell'effetto che provoca sui rendimenti di questi prodotti anche la valuta di riferimento, che oscilla molto più del mercato azionario. È un mercato, come abbiamo spesso definito, quello del forex, quello delle valute, sempre sveglio, che non dorme mai, e quindi magari anche una piccola notizia che si verifica, che viene divulgata quando noi dormiamo, magari provoca un'oscillazione molto forte anche al fondo che abbiamo puntato, che abbiamo sottoscritto appunto, e che punta su un determinato mercato per effetto della valuta. Quindi insomma teniamo in considerazione anche questi aspetti. Fabrizio D'Alecco, buongiorno. Buongiorno, premetto che io sono un consulente finanziario. Quindi, in parte, e quindi la posso anche mantenere anche come ospite, Fabrizio, insomma, le posso chiamare altri ascoltatori per fare le domande, magari lei ci aiuta, la ringrazio comunque, ci dica. Ne sarei lusingato. Io volevo sottolineare quello che osservo dal mio punto di vista nel mercato finanziario, che nell'ultimo anno c'è stato un grosso spostamento dei risparmiatori a favore di un asset in particolare, che è quello delle obbligazioni paesi emergenti. Il ragionamento dei risparmiatori, ma le parlo anche di grossi risparmiatori, è quello che muove il mercato, quindi sempre alla ricerca del miglior rendimento. Il miglior rendimento in una fase in cui i paesi industrializzati hanno adottato una politica monetaria alla giapponese, abbassando i tassi di interesse e anche di conseguenza i rendimenti dei titoli di Stato, c'è stata una riscoperta a favore delle obbligazioni paesi emergenti. Lei ha, Fabrizio, esatto. Fondi. No, le volevo chiedere se le persone che vengono da lei, se i suoi clienti le chiedono di seguirli proprio nell'investimento in questi paesi, lei che tipo di suggerimenti dà appunto, come si gestisce la consulenza anche in un ambito come questo, che è molto delicato, perché credo che anche per lei sia abbastanza difficile poter dire sì, fai bene, punta sulla Corea piuttosto che sul Brasile. Sinceramente non prendo proposizioni sui singoli paesi, ma lascio alle società di gestione e ai singoli gestori la possibilità di scegliere quali paesi danno le opportunità migliori. Direi che le scelte sono fondamentalmente due: se stare nell'area obbligazioni paesi emergenti con valute forte, che vuol dire al 95% in dollari, oppure la nuova tendenza, nuova fra virgolette, perché è già dall'inizio dell'anno che sta incrementando, è quella delle obbligazioni paesi emergenti in valuta locale, che si chiamano currency. Sì. Quindi noi abbiamo diverse società di gestione, e ce n'è una in particolare di cui non voglio fare il nome, perché non fa parte non vogliamo fare pubblicità né alla nostra società né a quella. Comunque questa società ha incrementato gli asset dal 2009 di 3 miliardi ai 30 miliardi di euro attuali. Una moltiplicazione dei pesci, ma magari non sarà neanche l'unica, Fabrizio. Per dare l'idea di quanti soldi sono investiti nei paesi emergenti, e le parlo di una delle società. E poi ci parla di investitori italiani, insomma, pensi quante... Chiaro. Ecco. Spieghiamo anche Fabrizio, magari agli ascoltatori, perché ovviamente poi possono essere redditizie queste... Abbiamo la pazienza di sentire suggerimenti per chi è in viaggio, Luca? Assolutamente. Ah, tra poco. Allora, quando ascoltavamo la riflessione di Fabrizio D'Alecco, Luca Davi, che è qui con me in studio, annuiva, perché effettivamente anche dal materiale che ha raccolto lui per documentare al meglio le pagine di Plus 24 di venerdì scorso, effettivamente confermava proprio come questa tendenza che l'ascoltatore ci raccontava, che dalla sua esperienza appunto poteva raccontarci, effettivamente fosse proprio tale, Luca, no? Perché sì, molte famiglie italiane stanno collocando il proprio risparmio su obbligazioni di paesi emergenti. È una tendenza che si è riscontra sicuramente allo sportello, comunque i consulenti propongono questo tipo di investimento, questo tipo di asset, sicuramente come dire, ha un appeal, il rendimento è interessante, i fondamentali dei paesi emergenti mostrano sicuramente una tenuta e quindi ovviamente l'interesse aumenta. Anche in questo caso però dobbiamo sempre ricordare che occorre cautela, voglio dire, ricordiamoci l'Argentina, il ricordo è ancora fresco, penso, nelle menti dei nostri ascoltatori, quindi bisogna sicuramente fare molta attenzione in questi casi. Quali sono i paesi che i gestori che ha interpellato dal punto di vista proprio delle aree emergenti sono in questo momento più appetibili, diciamo così? Allora, sul settore valutare in particolare, perché questo è un po' stato il focus della nostra ricerca, della nostra copertina di sabato, possiamo dire che abbiamo come dire, individuato alcune valute di mercati sicuramente più di nicchia, valute che sicuramente non sono sempre sulla bocca di tutti, ma che mostrano un margine di apprezzamento interessante. Molti segnalano in particolare come diceva Stelvio Bocca, il consulente in qualche modo prima segnalava, ci sono opportunità interessanti per il ringgit malesiano, per il won coreano, il peso filippino, la rupia indonesiana, insomma valute bisogna dire di altissima volatilità, rischiose, difficili da prevedere, ma valute che segnalano, così come un altro piccolo paniere che adesso andiamo magari a segnalare, un tasso di possibile incremento, così ovviamente segnalano molti analisti, almeno del 10-20%. L'altro piccolo paniere che segnalavo prima era quello riferito alle valute sudamericane, in particolare il peso messicano, il cileno e il colombiano. Queste sono valute che potrebbero registrare nei prossimi mesi, che hanno già registrato negli scorsi mesi, un incremento in virtù di una politica monetaria restrittiva da parte delle banche centrali di perché al contrario di quello che accade in Europa, in America, in Giappone, ci sono aree del mondo che dove invece stanno fortunatamente le cose vanno salgono. Bene, non sono come ovviamente il vecchio continente, almeno loro insomma mostrano segnali di importante ripresa, anzi di grandissima euforia, quindi anche in questo caso ovviamente partendo da una grandissima consapevolezza che si sta facendo un investimento rischioso, quindi come al solito mai investire più dell'almeno al massimo un 5-10%. Esatto. Infatti poi ci volevo arrivare su questo tuo suggerimento che comunque colgo molto volentieri. Perché, insomma, come dire, almeno come dire, per non bruciarsi, insomma, per non rimanere con il cerino in mano, ecco, in questo caso, come dire, queste valute messicana, cileno e colombiano mostrano grandissimi segnali di incremento di apprezzamento. Ti leggo un messaggio di un ascoltatore, Luca, perché forse dal tenore che ha questo messaggio non ha ascoltato la prima parte del nostro programma, il Forex dice è morto dopo l'illegittima indeducibilità delle minusvalenze che tu ci abbiamo spiegato nella prima parte. Per favore fate un appello all'Agenzia delle Entrate per una correzione. L'Agenzia delle Entrate esegue. L'abbiamo anche interpellata, ci siamo ovviamente, abbiamo cercato di approfondire un po' questo nodo normativo. Sicuramente l'Agenzia delle Entrate potrebbe registrare la cosa, anzi la stiamo seguendo direttamente, quindi sicuramente i nostri lettori saranno i primi a saperlo nel caso ci siano delle novità. Luca Vagliani, vengo da lei di nuovo, lei è a Torino, ma le chiedo di aiutarci a fare un giro per il mondo. Mi piace utilizzare quando facciamo queste trasmissioni anche questa immagine, perché ovviamente l'attenzione continua ad essere puntata su Cina e Giappone per le motivazioni che abbiamo già ampiamente spiegato nella prima parte del programma, però magari per qualcuno che volesse conferire un pochino di pepe in più al proprio portafoglio per una quota marginale, mi raccomando, non puntate tutto su un unico paese, su un unico prodotto, non ci stancheremo mai di cercarvi di farvi entrare bene in testa la regola aurea della diversificazione massima del portafoglio, ma insomma anche a giudicare dai suggerimenti che Luca Davi ha dato su Plus 24 sentendo molti suoi colleghi, e lei quali aree del mondo attraggono particolarmente in questo momento e quali suggerirebbe ai nostri ascoltatori? Sicuramente i mercati emergenti hanno delle ragioni fondamentali forti che li supportano, quindi concordo con la posizione prima espressa sui mercati emergenti. Non è stata citata per esempio l'India, che è sicuramente un mercato che ha dei fondamentali ha delle ragioni fondamentali forti per essere avvicinato, un forte cambiamento demografico, una forte domanda per consumi interni, quindi poca dipendenza, se vogliamo, anche dell'economia nei confronti della domanda estera, quindi della crescita estera, anche in condizioni nelle quali la crescita estera potrebbe venire meno, altri paesi dell'area asiatica interessanti possono essere l'Indonesia per motivi simili, anche se le votazioni non sono necessariamente così attraenti, perché no la Thailandia, e in generale secondo me i mercati emergenti ed in particolar modo l'area asiatica condividono alcune molte di queste caratteristiche che le rendono attraenti. C'è un ascoltatore che ci chiede, Baiani, mi scusi se continuo ad interromperla, mi chiede aspettative da qui ad un paio d'anni sul rand africano, sudafricano. È un'area che le piace, la metto in difficoltà, è più spostato verso altre parti del globo il suo interesse, le sue analisi. No, la realtà è che ci sono delle valute come quella sudafricana, ma questo vale anche per il dollaro australiano di cui prima si è parlato, che tendono ad avere una correlazione con l'andamento dei prezzi delle commodities, quindi è difficile vederli di per sé, è più facile vederli in un contesto più generale nel quale si ha un'aspettativa positiva nei confronti dei prezzi delle commodities, perché questi sono gioco forza legati in virtù delle caratteristiche intrinseche di quei mercati e delle esportazioni che quei mercati vengono effettuati. Sì, no, la interrompevo di nuovo, perché in realtà adesso, analizzando un po' tutte le parti del globo e cogliendo anche una riflessione che ci fa un ascoltatore al 349-238-6666 che dice bene i paesi emergenti, basta che poi se saltano non mi vengano a piangere in Italia come è successo appunto con l'Argentina. Mi stavo chiedendo, alla luce anche di questi extra rendimenti che molte parti del globo appunto riescono a riconoscere agli investitori, se ci sia da qualche parte del globo addirittura qualche focolaio possibile di default, fallimento, ma così questa è proprio una cosa, siccome siamo molto affezionati al tema Argentina e ogni tanto ci impaurisce di nuovo, mi chiedo se le vostre analisi raccontano anche di situazioni di preoccupazione in giro per il mondo, in modo tale che possiamo anche suggerire Vaiani e agli ascoltatori di stare lontani da queste zone se ci attraggono un po' come tema di investimento. Ci sono dei paesi che sono più in difficoltà di altri, questo fuori discussione, nell'area asiatica, in Vietnam è più in difficoltà di altri paesi, tant'è che sta cercando di svalutato nel corso degli ultimi mesi la propria valuta e nel corso delle ultime settimane ancora. In termini di default, probabilmente i default sono molto più vicini a noi di quanto infatti sarebbe stato il prossimo tema che volevo poi introdurre, però visto che stiamo parlando di aree emergenti mi sono fermavo lì. Le aree emergenti, allora sicuramente ci sono dei paesi che sono in maggiore difficoltà rispetto ad altri. Faccio un esempio, per esempio del Venezuela negli Stati dell'America Latina, anche se difficile pensare che poi possa a breve fare default, ma è chiaro che è un paese che ha delle difficoltà anche politiche maggiori rispetto ad altri. Abbiamo parlato del Vietnam, poi ci sono degli eccessi di leva sicuramente anche nell'area del Golfo. Ma insomma, l'ho portata su questo tema solo per invitare gli ascoltatori a fare attenzione anche ai rendimenti molto alti riconosciuti da certi paesi, attenzione anche alle condizioni finanziarie che magari possono vivere, come è successo per la Grecia a maggio, quando le obbligazioni appunto rendevano, ma tuttora continuano ad avere dei rendimenti altissimi. Esatto, non mi ricordo le aste a che punto stanno adesso, però insomma questo è il tema dal quale non si può prescindere quando si sceglie un'economia a cui destinare parte del nostro portafoglio. Volevo far concludere a Stelvio Bo, perché l'ho accantonato lì negli ultimi minuti, un'ultima raccomandazione da rivolgere ai nostri ascoltatori. Bo, prima di salutarli, relativamente al tema che abbiamo affrontato oggi. Ma di guardare l'economia e l'andamento dei mercati non giorno per giorno, ma almeno anno per anno, o addirittura con un arco temporale un po' più grande. Noi tendiamo a prendere decisioni emotive invece che decisioni razionali. Capire come si muovono le cose, non sotto l'influsso della notizia quotidiana, ma invece mettendo le cose in prospettiva, fa stare molto più tranquilli e probabilmente fa raggiungere migliori risultati. Questo è vero, ma allora io non dovrei più fare questo lavoro, così come Luca non dovrebbe scrivere più niente, perché noi invece purtroppo, per fortuna, dobbiamo raccontare la quotidianità, quello che accade, quindi seguire però un po' anche la cronaca, anche esatto, a vedere in prospettiva, almeno quello, un piccolo contributo quotidiano. Luca, io ringrazio Stelvio Bo e Luca Vaiani per essere stati con noi, una puntata molto tranquilla questa mattina, per leggere un po' tra le pieghe, le righe del mercato finanziario. Ci ritorneremo, come sapete bene, anche nelle prossime puntate. Domani plus 24, domani Salvadanaio invece affronta ancora una volta il tema mutui, con le novità relative al fondo di solidarietà che è stato attivato da poco dal Ministero dell'Economia, anche se in realtà l'operatività piena dovrebbe concretizzarsi al 2 settembre, ma credo che siamo già in ritardo, e tornerà con noi anche il nostro Maximilian Cellino. Luca Davi, grazie anche a te per questo esordio salvadanaiesco, con grande successo, per cui sappi che sei già precettato per nuove puntate. Noi con Plus 24 ritorneremo anche venerdì per anticipare la storia di Copertina di sabato, quindi non vi dico niente, anche quello sarà un tema molto interessante. Grazie a tutti, a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori oggi in assistenza tecnica. Torniamo domani, buona giornata. Salvadanaio.